Lavoro, boom di disoccupazione tra i giovani in Germania, invece dato ai minimi storici al 6,7%. Napolitano, debito pubblico, eredità spaventosa, non lasciamolo ai giovani. Evasione, blitz del fisco a Perugia, in Piemonte nel 2011, irregolarità in un'azienda su tre, Befera l'anno scorso 2 milioni di controlli. Il naufragio della Costa, il suo nuovo legale, di Schettino, va liberato, è possibile che torni a fare il comandante. Una buona giornata da Anna-Rita D'Ambrosio e dalla redazione. Ai minimi in Germania la disoccupazione, soprattutto quella giovanile, resta una piaga italiana, come ha riconosciuto ieri sera anche il Premier Monti da Bruxelles. E allora partiamo da qui, dai dati diffusi oggi dall'Istat. Continua la crescita del numero dei disoccupati in Italia, che a dicembre ha raggiunto la quota di 2.243.000, un aumento dello 0,1% rispetto al mese precedente, ma dello 0,8% rispetto ad un anno fa. A preoccupare particolarmente poi il dato sulla disoccupazione giovanile, salito al 31% nei ragazzi tra i 15 e i 24 anni, più 3% rispetto all'anno scorso, come spiega il direttore del Dipartimento Statistiche Sociali e Ambientali dell'Istat, Linda Laura Sabadini. Il tasso di disoccupazione giovanile è un indicatore particolarmente critico, soprattutto se visto tra l'altro in rapporto alla situazione europea. Siamo molto al di sopra della situazione europea, che è al 22,1%, anche lì un tasso superiore alla media del tasso di occupazione generale. I cali dell'occupazione hanno riguardato soprattutto gli uomini e le grandi imprese, e mentre l'Italia arretra sul fronte lavoro, l'Europa mantiene i livelli occupazionali e addirittura in Germania si registra il minimo storico con il 6,7%. L'Italia ha un tasso di disoccupazione comunque che è inferiore a quello europeo. Noi siamo all'8,9 contro il 9,9 a livello europeo, però in Europa questo è stabile, in Italia in crescita. A ciò va aggiunto che l'Italia ha un tasso di inattività molto più elevato, 37,5%, perché nel nostro paese è molto alta la componente dello scoraggiamento, chi non cerca più lavoro. Alessio Maurizio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Non lasciamo ai giovani la spaventosa eredità del debito pubblico. Questa l'esortazione del capo dello Stato Napolitano a Bologna. Lo vado ripetendo da vario tempo, ben prima che nascesse questo governo, e lo vado ripetendo, diciamo, approfitto di qualsiasi governo. Noi non possiamo, innanzitutto dal punto di vista, direi perfino morale, lasciare sulle spalle delle generazioni più giovani e di quelle che verranno questa spaventosa eredità. E giovedì prossimo riprende la trattativa governo parti sociali sulla riforma del mercato del lavoro. Il governo la varerà per fine marzo, ha annunciato ieri il ministro Fornero. Oggi il ministro è stata in audizione in commissione alla Camera, ha parlato di pari opportunità. Vincenzo Miglietta da Roma in diretta. Sì, buongiorno. Politiche di sostegno all'occupazione femminile, di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, contrasto alle violenze su donne e bambini, salute e sicurezza, prevenzione e vigilanza, questi temi al centro dell'audizione in Parlamento del ministro del lavoro Elsa Fornero. Ministro, come sappiamo, al centro in questi giorni degli sforzi del governo nel percorso di riforma del mercato del lavoro. Per i tempi la Fornero ha indicato fine marzo. Quanto ai contenuti, la riforma passerà per il dialogo con le parti sociali, ha spiegato, e dovrà essere incisiva. Il capitolo contratti, poi, la sfida che abbiamo davanti, ha detto il responsabile del welfare, è quello di rendere appetibile agli imprenditori la stabilizzazione dei posti di lavoro. Sentiamo su questo il ministro. Che induce anche i datori di lavoro a scommettere sui rapporti di lavoro a lungo termine. Possiamo pensare anche di sperimentare nuove forme contrattuali. L'articolo 18 non è preminente, ma non deve neanche essere un tabù. No al tabù dunque sull'articolo 18, sì a sperimentare nuove forme contrattuali anche con accordi con le regioni, dice il ministro Fornero. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo. Intanto la Fornero aveva parlato anche di Fiat, deve restare italiana, aveva detto ieri il ministro. E intanto si è saputo che si terrà domani sera a Torino un incontro tra l'amministratore delegato di Fiat Marchionne ed il leader di CISL Raffaele Bonanni e Will Luigi Angeletti. Sarebbe un incontro che rientra nell'ambito di quelli stabiliti, sono incontri sistematici in cui ci si dice come stanno andando le cose e quali sono le prospettive future. Sin qui il lavoro, l'altro tema è primo piano. Resta la lotta all'evasione fiscale, ne ha parlato oggi davanti alla Commissione Finanze il direttore dell'Agenzia delle Entrate Befera, in diretta da Roma, Elisabetta Fiorito. Sì, comincia a dare i suoi frutti la lotta all'evasione, quanto rivela Attilio Befera, il direttore di Equitalia e delle agenzie delle entrate in Commissione Finanza qui alla Camera. Nel 2011 sono stati recuperati almeno 11 miliardi e mezzo di evasione contro i 9 del 2009 e i 10,5 del 2010, ma sentiamo Befera. In base alla prima analisi dei risultati conseguiti nel 2011, l'attività di recupero dell'evasione si è ulteriormente rafforzata rispetto agli anni precedenti, facendo registrare un trend estremamente positivo. Entrate per almeno 11,5 miliardi di euro, dato provvisorio elaborato sulla base dei flussi informativi finora acquisiti. Pronto poi il nuovo redditometro che sarà operativo entro il primo semestre del 2012 ed è stato messo a punto utilizzando i dati di oltre 22 milioni di famiglie, ovvero circa 50 milioni di soggetti. In primavera, annuncia poi Befera Repubblica, arriverà la grande svolta con il controllo dei conti bancari. Preoccupano però le intimidazioni contro Equitalia, oltre 250 atti di ostilità, 70 solo a gennaio, e ciò ha provocato una demotivazione e anche paura tra i dipendenti, con riflessi anche sui risultati della lotta all'evasione. Per il momento qui da Montecitorio è tutto, a voi studio. Grazie Elisabetta. Sul fronte controlli, sempre nella lotta all'evasione fiscale, tempo di nuovi blitz e di bilanci. Controlli a tamburo battente per le fiamme gialle. Nei 115 esercizi scandagliati nel capoluogo lombardo, infatti, è stato riscontrato un aumento sensibile degli incassi, con una media del 44% in più rispetto al weekend precedente. E da oggi vengono diffusi dalla Guardia di Finanza i dati dell'evasione regione per regione. Questa mattina il Piemonte ha fatto un bilancio del 2011. Il generale Carlo Ricozzi, comandante regionale del Piemonte. 2 miliardi di redditi recuperati a tassazione, oltre 225 milioni di IVA evasa. Ma l'aspetto che rileva, secondo noi, è quello qualitativo, perché all'interno di questi dati ci sono ad esempio 350 microaziende completamente o parzialmente sconosciute al fisco. Intanto non si fermano i blitz. In Umbria, Perugia, effettuati ieri circa 60 controlli in locali, negozi ed esercizi pubblici. Risultato? Mancata emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale in circa il 30% dei casi. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tema a noi molto caro, la lotta all'evasione fiscale, e la nostra rubrica Paese Sommerso. Il Paese Sommerso. Il Paese Sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Abbiamo vissuto fino a poco tempo fa in un paradiso fiscale. A denunciarlo durante servizio pubblico è stato non un provocatore sovversivo, ma il banchiere Claudio Costamagna. L'Italia da sempre è un paradiso fiscale e nessuno l'ha mai detto, perché le rendite finanziarie sono tassate ad aliquote completamente diverse da quelle dell'imposta del reddito. In tutti gli altri paesi le rendite finanziarie sono equiparate agli altri redditi e quindi vengono tassate all'aliquota marginale che ognuno di noi paga. Allora, questa, già solo questa misura qui potrebbe fare molta cassa, perché come sappiamo molti italiani hanno una ricchezza mobiliare importante. Fino alla fine del 2011, infatti, in Italia le rendite finanziarie erano tassate al 12,5%, una delle tassazioni più basse in Europa e nel mondo. Facevano eccezione i conti correnti e i depositi, per il resto era il ben godi del risparmiatore. Pensate che azioni e obbligazioni in Germania sono tassate al 31%, al 25% in Austria, al 29% in Finlandia, al 30% in Svezia. In Italia invece la rivoluzione è arrivata dal 1 gennaio. Fermo restando il prelievo del 12,5% sui titoli di Stato, l'aliquota sulle rendite finanziarie è salita al 20%. Una riforma che, come ha detto Costamagna, permette di fare cassa. Si parla di 1,2 miliardi di euro. Peccato non averci pensato prima. Resta invece l'anomalia della Grecia, dove le rendite sono ancora tassate al 10%, in attesa che l'Europa, in cambio del salvagente, spinga Atene ad adeguarsi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E intanto ieri è arrivata la sforbiciata ai costi della politica. Ieri sono arrivate le decisioni della Camera e la stessa cosa si appresta a fare oggi il Senato. Saranno più leggere già a partire da gennaio le buste paga dei deputati. Per quelli che ricoprono incarichi istituzionali l'indennità sarà ridotta del 10%, il taglio riguarderà circa 200 onorevoli. Tutti dovranno invece presentare fatture o altre pezze d'appoggio per ottenere almeno la metà dei contributi destinati a portaborse e spese di segreteria. Per quanto riguarda le pensioni, poi sempre da gennaio è confermata la fine dei vitalizi ed il passaggio al sistema contributivo. Per evitare aumenti di stipendio, le legati al diverso tipo di tassazione del nuovo sistema, dalla busta paga dei deputati verranno tagliate altri 1.300 euro lordi che saranno accantonati in un fondo speciale. Tutte queste novità varate ieri dalla Camera oggi dovrebbero essere ratificate anche dal Senato. Nel frattempo anche il governo, impegnato sul fronte dei tagli dei costi della politica, ieri ha deciso di mettere un tetto agli stipendi dei manager pubblici. Non potranno guadagnare più di 310.000 euro lordi all'anno, cioè la retribuzione del primo presidente della Corte di Cassazione. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E noi ci trasferiamo a Bruxelles. Disciplina rafforzata sul patto di bilancio con nuove regole di rigore sui conti e sulla crescita. L'Unione Europea ha raggiunto ieri l'intesa, ma oltre alla Gran Bretagna si è sfilata anche la Repubblica Ceca. Molto soddisfatto il premier italiano Mario Monti, che oggi è rimasto a Bruxelles per nuovi incontri. Poi nel pomeriggio volerà a Parigi per ricevere un prestigioso premio. E allora noi ci colleghiamo con Bruxelles, con Sergio Nava. Buongiorno, è un vero e proprio pellegrinaggio quello che sta avvenendo questa mattina alla residenza del rappresentante permanente italiano presso l'Unione Europea, Ferdinando Nelli Feroci, dove il premier Mario Monti sta vedendo ben quattro commissari europei. Ha cominciato col commissario alla fiscalità Algirdas Meta, poi il commissario al mercato interno Michel Barnier, e ora sta pranzando col commissario agli affari economici e monetari Olli Rehn e il commissario alla concorrenza Joaquin Almunia. Davvero incontri ad alto livello, anche abbastanza insoliti. Monti sta veramente tessendo una tela importante in Europa, e questo ruolo gli sta venendo riconosciuto anche a livello delle istituzioni comunitarie. Dopo pranzo dovrebbe esserci un incontro con la stampa per fare il punto su questi incontri. Poi, come avete detto, Monti si trasferirà a Parigi per ricevere il premio Trombino Scope all'annuario dei politici di Francia e di tutta Europa. Intanto sul fronte, diciamo, più macro, si guarda ormai, dopo il varo del Fiscal Compact, cioè del trattato salva euro, alla chiusura dei negoziati tra la Grecia e i paesi creditori. L'obiettivo è chiudere entro la fine della settimana, anche perché si sta aprendo il fronte portoghese dopo l'aumento dei rendimenti dei titoli, della vendita nelle aste dei titoli portoghesi, e si teme l'apertura di un nuovo fronte del debito, appunto, in Europa. Da Bruxelles è tutto. Grazie a Sergio Nava. Monti, lo avete sentito, stasera riceverà questo premio molto prestigioso, giunto alla sua 20ª edizione, che designa le personalità che con il loro impegno e le loro attività hanno maggiormente inciso sulla realtà e il dibattito politico a livello nazionale e in ambito europeo. Nelle precedenti edizioni il premio Personalità Europea dell'Anno era stato concesso, fra gli altri, ad Angela Merkel, Tony Blair, Nicolas Sarkozy, Jean-Claude Trichet. Le borse intanto oggi plaudono agli accordi di Bruxelles. FTSE MIB più 1,61%. Le 13:16 nella prima parte del nostro GR. Abbiamo parlato di lavoro, del boom di disoccupazione tra i giovani. In Germania invece dato ai minimi storici, al 6,7%. Abbiamo parlato anche di evasione fiscale, del blitz del fisco a Perugia e del bilancio del 2011, dell'attività del 2011 della Guardia di Finanza in Piemonte, scoperta un'irregolarità in un'azienda su tre. Befera oggi ha parlato, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, in Commissione Finanze alla Camera. L'anno scorso ha detto 2 milioni di controlli. Tra pochissimo parleremo di cronaca, inseguimento con sparatoria, due vigili lievemente feriti a Milano. Andremo anche a Sanremo, dove si sta presentando il Festival della Canzone Italiana. Celentano ci sarà, ha annunciato Mazza. Ancora una buona giornata da Anna Rita D'Ambrosio e dalla redazione. Noi partiamo dalla cronaca, dal naufragio della Costa Concordia. La Procura di Grosseto valuti l'opportunità di iscrivere nel registro degli indagati i vertici della Costa. Lo chiedono gli avvocati che assistono alcuni naufraghi di varie nazionalità in vista dell'incidente probatorio previsto per il 3 marzo, in cui verrà aperta la scatola nera della nave. Stamani ospite di Alessandro Milan il nuovo legale del comandante Schettino, che affianca il livornese Leporatti. Si chiama Salvatore Parascoli. Scandola. Il comandante Schettino deve essere liberato per due ordini di motivi. Uno, perché non sussistono ormai, né sussistevano secondo noi al momento, esigenze cautelari, ossia né pericolo di fuga né inquinamento delle prove. E purtroppo continuiamo ad assistere a un massacro ingiustificato, connotato anche da una serie di illegittimità, considerato che molto spesso lo si ingiuria e lo si denigra, secondo me, ai limiti del codice penale. C'è possibilità che Schettino torni, secondo lei, a fare il comandante? In via teorica sì, praticamente dovremo vedere gli sviluppi. Cioè lui stesso non lo vorrà fare. È vero che ha detto metterò mai più piede su una nave, è vero che l'ha detto. Letto sui giornali, a me non l'ha detto, ma l'ho letto sui giornali, e nei primi momenti ha detto cose del genere. Ma non lo so. Il processo Mills, i giudici della prima sezione della Corte d'Appello di Milano hanno fissato per il prossimo 18 febbraio l'udienza che si terrà a porte chiuse per discutere l'istanza di ricusazione avanzata da Berlusconi nei confronti del collegio. E noi ci spostiamo all'estero, dove è di almeno un centinaio di morti, di cui 55 civili uccisi dalle forze di sicurezza. Il bilancio delle violenze di ieri in Siria, oggi all'ONU la discussione sulla bozza di risoluzione della Lega Araba. Altri 100 morti negli scontri di ieri, più di 50 dei quali sarebbero civili. Il Consiglio Nazionale Siriano, il principale gruppo di opposizione, ha perciò proclamato un giorno di dolore e di collera, accusando le forze del regime di aver accentuato la repressione usando armi pesanti e carri armati. Ma il Consiglio biasima anche la comunità internazionale, che non ha preso misure rapide per proteggere i civili, sottolinea. Oggi al Consiglio di sicurezza dell'ONU si discuterà, presenti anche il segretario di Stato americano Clinton e il ministro francese Juppé, una bozza di risoluzione di sostegno al piano della Lega Araba per l'allontanamento dal potere del presidente siriano al-Assad. Pronti ad approvarla sarebbero 10 dei 15 membri del Consiglio, ma resta l'opposizione di Cina e Russia. Mosca è del tutto ostile e propone un negoziato informale in cui sarebbe pronta a far da mediatore, ma il Consiglio nazionale siriano rifiuta di sedersi a un tavolo prima delle dimissioni di Assad. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Ci trasferiamo a Londra per parlare di Radio 24 e di nanotecnologie. Ci spiega tutto Federico Pedrocchi. Sono qui a Londra, dove c'è una riunione del progetto europeo al quale partecipa Radio 24 con la trasmissione di Scienza Mebius. È un progetto che vede anche altri media coinvolti, il Guardian in Inghilterra e il Mundo in Spagna. L'obiettivo di questo progetto, che si chiama Nano Channels, è sondare come l'opinione pubblica si relaziona a questa grande rivoluzione che sta per arrivare, ovvero le nanotecnologie, innovazione che si distende sui settori applicativi più diversi, dai nanofarmaci all'elettronica. Mebius stiamo già facendo delle trasmissioni su vari aspetti di questa rivoluzione e poi attraverso la pagina Facebook stiamo chiedendo agli ascoltatori di inviarci le loro opinioni. È un contributo importante anche per sentirsi e svolgere il ruolo di cittadine e cittadini europei. Allora, qui a Londra, questo pomeriggio si terrà in una sala del Guardian un appuntamento con molti ricercatori inglesi, tutti di primissimo piano, e anche con la partecipazione del ministro della ricerca inglese, David Wilcott. Il tema: i nanofarmaci già nel 2030 saranno in grado di prolungare notevolmente la vita media della popolazione. L'appuntamento si può seguire via internet e si potranno anche inviare delle domande. Se i nostri ascoltatori vogliono farlo, possono digitare in un motore di ricerca Moebius Scienza e poi scegliere l'indirizzo del sito www.moebiusonline.eu. Poi raggiungeranno la home page del nostro sito e lì ci sono tutte le istruzioni. Si parte alle 16, bisogna collegarsi una decina di minuti prima. E questo è tutto da Londra. Grazie a Federico Pedrocchi. Dunque, appuntamento alle 16 e noi torniamo alla cronaca. Lo avete sentito anche durante l'appuntamento relativo alla situazione della viabilità e allerta neve e ghiaccio in tutto il centro nord, con l'arrivo di una perturbazione che sta portando temperature polari e nevicate anche in pianura, condizioni di maltempo che dureranno fino a metà febbraio. A Torino pronti 1000 spalatori delle squadre antighiaccio, a Genova primi fiocchi di neve, in Sila meno 6. Nell'Europa dell'Est l'ondata di gelo ha già causato decine di morti. Il maltempo, quello che riguarderà l'Italia, riguarderà anche il centro-sud, è prevista neve anche nella capitale a Roma tra giovedì e venerdì. La cronaca da Milano: ha sparato 3 colpi di pistola contro le gomme dell'auto che l'aveva appena investito. Il 42enne vigile urbano del comando centro di Milano, che questa mattina a bordo di un'auto con un collega 25enne ha inseguito e intercettato una Renault Megane bianca su cui stavano fuggendo 3 malviventi dopo un furto. Dunque, dopo il vigile che era stato ucciso, un altro episodio a Milano con una sparatoria e un inseguimento nel pieno centro della città, che ha coinvolto 2 vigili. Sono stati feriti entrambi, ma in maniera per fortuna lieve. Come si sentono e come vengono percepiti i lavoratori gay, transessuali, lesbiche e bisessuali nel mondo del lavoro? Si sono chiesti questo all'IKEA e hanno fatto girare un questionario a 500 dipendenti. Bologna, Roma e Catania sono queste le città campione scelte da IKEA per svolgere un questionario che ha raccontato un'Italia fuori dai luoghi comuni. La domanda posta ai lavoratori era se avevano difficoltà a lavorare con colleghi dichiaratamente gay, con colleghe lesbiche, con transessuali o bisessuali. In modo omogeneo la risposta è stata questa, ce la racconta Valerio Di Bussolo, responsabile relazioni esterne IKEA. Esce chiaramente che l'85% dei nostri coworker dichiara di non avere alcun problema a lavorare accanto a colleghi dichiaratamente gay, lesbiche, bisessuali o trans. Solo un 10% dice che dichiara di avere problemi. Era una verifica che per fortuna ha avuto un ottimo risultato per un'azienda che aveva già fatto una scelta. Basti ricordare che quando IKEA aprì una nuova sede a Catania fece affiggere una foto di due uomini che si tenevano per mano, ripresi di spalle con la scritta sotto: siamo aperti a tutte le famiglie. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso parliamo di musica, ne abbiamo parlato, abbiamo già accennato qualcosa anche nei nostri titoli. È in corso la conferenza stampa di presentazione di questo Sanremo. Accanto a me c'è la nostra Marta Cagnola. Marta, arriva Sanremo, quando siamo in prossimità le polemiche? Beh, le polemiche ovviamente quest'anno soprattutto su Adriano Celentano. Diciamo che hanno usato subito un linguaggio calcistico. Il direttore di Rai 1 Mauro Mazza poco fa ha detto: noi il nostro Tevez l'abbiamo ingaggiato, il nostro Tevez si chiama Adriano Celentano. Quindi Adriano Celentano c'è, anche se pare che la firma non sia ancora stata apposta su questo contratto dalle cifre che sono state svelate, ma con un colpo di scena. Allora, già a dicembre Celentano aveva detto che avrebbe devoluto il suo compenso, ma ora ha chiarito come. Se parteciperà a una serata, 300.000 euro, se saranno due, 700.000 euro, da 3 a 5, 750.000 euro, che saranno divisi tra famiglie bisognose segnalate da 7 sindaci capoluoghi di provincia e ospedali di emergency. A seconda della cifra, ci sono anche proprio tutte le cifre precise di come dividerà il tutto. Appena arriverà a Sanremo depositerà un documento da un notaio e poi tutte le spese per la beneficenza saranno a suo carico. Questo ha dichiarato Adriano Celentano attraverso Gianmarco Mazzi. Poi gli altri casi, il caso Civello ancora su Biudice, ancora nessuna decisione. Per quanto riguarda Gigi D'Alessio nessun problema, e ora stanno parlando del caso Battisti, della vedova Battisti. Vado a sentire, poi vi aggiornerò su cosa hanno deciso. Ci farai sapere. Intanto molto interessanti le notizie su Celentano, grazie alla nostra Marta Cagnola. Noi siamo al calcio, apre il turno infrasettimanale, seconda giornata di ritorno, la capolista Juventus che stasera gioca a Parma alle 20:45. Juventus punita ieri dal giudice sportivo per colpa dei cori razzisti rivolti a due giocatori dell'Udinese nel corso della partita di sabato. Alla società anche un'ammenda di 10.000 euro. In Serie A intanto c'è da segnalare un esonero, salta la panchina di Attilio Tesser, ultimo in classifica con il Novara, e torna Emiliano Mondonico. Emiliano Mondonico, detto Mondo, torna in campo, anzi in panchina, che non è quella di un pensionato, ma quella di un allenatore che da oltre 30 anni fa questo mestiere. Torna sulla panchina del Novara, ultimo in classifica, ma non è questo il punto. Il punto è che mette un punto a uno degli anni più difficili della sua vita. Proprio un anno fa, infatti, rivelò che non se la sentiva più, che un tumore allo stomaco era tornato all'attacco. Disse che la bestia, così la chiamava, non si era arresa, ma che non si arrendeva neanche lui. Un anno dopo, il Mondo è di nuovo tra noi e già giovedì sera, nel posticipo di Serie A contro il Chievo, si siederà su quella panchina che in questi mesi è stata la sua ossessione. Non importa che la partita si veda meno bene, ma si respira di più. Il calcio è la mia vita, dice Emiliano, tipo strano, perché quando giocava a calcio era un individualista, tutto dribbling. Poi da allenatore è diventato il contrario. Si nasce incendiari e si finisce pompieri, dice, ma il calcio mi ha insegnato a vivere e anche a sopravvivere. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione, curata e condotta da Anna Rita D'Ambrosio. Grazie regia a Paolo Corleoni. Ora vi lasciamo in compagnia di Italia in Controluce. Il GR torna alle 14. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.